sono sempre un vizio di acqua. Uno di un buon player per il mondo del comune di un cattolo è della Croce Rossa. Si chiamava. Buonasera a tutti, sono il signor Presidente. Questo sarà il contromotore che avremo in avventura e alla prossima di un buon vizio di acqua. Tutti i lati, sono il Ecco. Buonasera, sono stato benvenuto di un nuovo edizione del vostro programma settimanale Trattare in Scena. Perciò radio di quella puntata di un documentario della durata di 90 minuti prodotto nel 2010. Si tratta di Svelaggio, di studio, tutto girato dalla rivista e produttrice di scuola Mariana Cori. Registrazione in società a nuovo. Vedere questo documentario è stato scritto di collaborazione tra i Gitti, Franca, Marocco e Emirati Arabi Uniti. Vi daremo più dettagli sul segno stasera dopo il prossimo stacco musicale. Non hanno saluto. L'organizzazione della cooperazione islamica oggi ha invitato oggi i suoi stati membri a contribuire generosamente alla conferenza dei donatori su Mali, prevista mercoledì a Bruxelles per aiutare alla restaurazione di una pace durevole in questo paese. Tale appello è stato lanciato dal segretario generale dell'OCI, Akmaleddin Isanoglu, all'apertura di una riunione islamica sul Mali alla quale hanno partecipato i ministri degli affari esteri della Turchia, dell'Iran, dell'Egitto, del Mali, di Burkina Faso e di Djibouti. L'inviato speciale del segretario generale dell'ONU in Mali e nei paesi del Sahel, Romano Prodi, ha assistito alla riunione convocata per discutere un aiuto logistico e finanziario al Mali, uno dei 57 membri dell'OCI. Il ministro degli esteri egiziano Canavano ha avuto un colloquio telefonico con suo omologo russo Sergei Lavrov sulla crisi siriana e sulle esigue dei loro contatti con le forze regionali e internazionali con il massimo conflitto. Lo scrive l'agenzia egiziana Nina. I due ministri hanno discusso della conferenza sulla Siria che si dovrebbe tenere a fine mese. L'assistente del Presidente della Repubblica per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, Hossam Dardar, inizia oggi una visita in Turchia nel corso della quale consegnerà un messaggio del Presidente Morsi al Primo Ministro turco Recep Tayyip Erdogan. Questo messaggio versa soprattutto sull'iniziativa egiziana per la risoluzione della crisi siriana. Secondo un comunicato presidenziale, l'Egitto ha proposto una soluzione quadripartita in agosto scorso, appellandosi ad un dialogo tra l'Egitto, l'Arabia Saudita, la Turchia e l'Iran mirante ad una soluzione politica urgente della crisi siriana. Gli esponenti dell'opposizione siriana appartenenti alla coalizione nazionale si confronteranno con i loro alleati regionali, ovvero con l'Arabia Saudita, Stato di Turchia, prima di decidere se e come partecipare alla conferenza internazionale, ipotizzare le fasi della diplomazia del nostro Washington per trovare una soluzione politica al conflitto in Siria. All'inizio è George Stoga, che è presentato all'interno del gruppo dopo le dimissioni del mese futuro. I termini della proposta non sono ancora stati chiariti, ha dichiarato George Stoga, per questo è ancora di maggiore colore di partecipazione. La parte nostra, prima impegnata nelle consultazioni con le forze rivoluzionarie, è impegnata all'interno dei confini della Siria con i nostri alleati regionali. Emergono prove sempre più concrete che il regime siriano abbia impiegato armi chimiche nel conflitto con i ribelli, e questo è un dato estremamente grave, lo ha detto il premier britannico David Cameron a margine dell'incontro alla Casa Bianca con il presidente americano Barack Obama. Certamente non abbiamo escluso di intraprendere azioni in risposta a ciò che sta accadendo sul terreno, ha dichiarato Cameron in una dichiarazione registrata alla radio RPR, trasmessa mentre era in corso il colloquio con Obama. Le prove aumentano e i dubbi sono sempre meno, e credo che questo sia estremamente grave, ha detto Cameron. Sono le 20:20, siete gli ascolti del notiziario. Un F-16 della nazione turca si è schiantato nel tronzo della città di Artvin, nel sud-est della Turchia, a meno di 40 km dal confine con la Siria. Si riferisce una fonte ufficiale dell'esercito di Ankara, senza specificare la dinamica dell'accaduto. Il caccia in missione sulle montagne Al-Manus aveva interrotto le comunicazioni in mattinata. Prima del silenzio radio, il pilota aveva annunciato di essere pronto da spogliarsi con l'angolo. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu arriverà domani in Russia per incontrare il presidente Vladimir Putin. Lo rende noto il Cremlino, precisando che i colloqui riguarderanno la situazione attuale in Medio Oriente, in particolare la Siria. Nei giorni scorsi, fonti di stampa israeliane avevano ipotizzato che Netanyahu avrebbe discusso con Putin anche le forniture russe a Damasco dei missili F-300 per la difesa antiaerea. Il segretario di Stato americano John Kerry sbarcherà domani in Stoccolma per discutere con il primo ministro svedese Fredrik Reinfeldt, per il delicato conflitto siriano e il processo di pace in Medio Oriente. L'ha comunicato oggi il governo svedese sul suo sito web. Nel corso della riunione verranno affrontati gli attuali costumi di politica estera e principalmente la crisi in Siria, quanto le possibilità di ridare slancio al processo di pace in Oriente e il passaggio del conflitto in Afghanistan. Alla difesa, lo ha detto oggi il premier israeliano Benjamin Netanyahu riferendosi al dibattito sul bilancio 2013-2014, in cui il ministro delle finanze Larry Lapin prevede per il settore una riduzione di 800 milioni di euro. Contrari i militari che ieri hanno incontrato Netanyahu, il ministro della difesa Moshe Yaron e lo stesso Lapin, ad un abbondimento dell'intervento. Secondo il premier, il taglio potrebbe essere ridotto a circa 200 milioni. 10 persone sono morte, almeno altre 30 sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba vicino all'ospedale di Benghazi. Adesso decide il presidente di andarla. Attualmente distrutti ristoranti che si trovano nella adiacenza e ha brevemente danneggiato alcuni immobili possibili. Ha aggiunto il spavento del governo libico. La città di Benghazi, bastione della rivoluzione libica, è stata teatro in questi ultimi mesi di numerosi attentati e attacchi contro i servizi di sicurezza e gli interessi di alcuni paesi occidentali. L'ex numero uno del Fondo Monetario Internazionale, FMI, Dominique Strauss-Kahn, è giunto oggi in Sud Sudan per aprire una banca, la National Credit Bank, NCB, per valutare le opportunità di investimento nel paese. Credo che un paese come il Sud Sudan meriti un'attenzione speciale, ha detto la stampa al suo arrivo. I mesi civili, tra cui 4 donne e 3 bambini, sono stati uccisi dall'esplosione di una mina lungo una strada nella provincia di Kandahar, nel sud dell'Afghanistan. Ne riferisce la polizia. Un furgoncino ha spaccato una mina nella provincia di Afghanistan. 10 persone sono rimaste uccise, tra cui 4 donne e 3 bambini, Bassanda Rose, capo della polizia della provincia, considerata un bastione dell'insurrezione armata nei talebani. I talebani afghani libereranno presto gli altri 4 turchi che sono nelle loro mani, dopo il recente rilascio di 4 ingegneri ieri, ma resa noto il portavoce degli insorti. La prima liberazione è stata disposta con uno spirito umanitario, e dato l'amore che il popolo turco dimostra per l'Islam, anche gli altri 4 ostaggi saranno presto rilasciati. Gli 8 ingegneri erano su un elicottero che 20 giorni fa ha fatto un atterraggio di emergenza nella provincia di Lodi. 6 persone sono morte, 10 gli altri sono rimaste oggi ferite nelle Filippine, un episodio di violenza legato alle elezioni in corso per il rinnovo di gran parte del congresso. Le vittime si aggiungono 48 morti registrate durante la campagna elettorale. I filippini sono chiamati oggi alle urne per il rinnovo di parte del congresso per elezioni di medio termine, che secondo i sondaggi dovrebbero rafforzare il governo del presidente liberale Domenico Maiorca. Più di 52 milioni di persone sono chiamate ad eleggere 12 dei 24 senatori e quasi tutti i 300 deputati, oltre ad una serie di consiglieri provinciali e municipali. In Grecia inizia oggi l'invio dei fogli di precettazione ai circa 88.000 insegnanti dei licei, che hanno annunciato uno sciopero di 24 ore per venerdì 17 maggio, giorno dell'inizio degli esami di ammissione all'università, e uno di 5 giorni, dal 20 al 24 maggio, sempre durante i giorni degli esami di ammissione, per protesta contro il licenziamento di un certo numero di precari, l'aumento di 2 ore settimanali, il cambio del sistema di trasferimento interno e la fusione di scuole. Grazie cari ascoltatori, avete appena ascoltato il notiziario. L'Egitto desidera aderire al gruppo delle 5 grandi economie emergenti del mondo, il BRICS, che comprende il Brasile, la Russia, l'India, la Cina e Sudafrica. In effetti, l'Egitto vuole approfittare dell'esperienza di questi paesi che attualmente dispongono di grandi riserve di cambio e di un aumento del tasso delle esportazioni internazionali. senza dimenticare le realizzazioni compiute nel campo della lotta contro la povertà e la disoccupazione, della crescita della civilizzazione e la promozione della ricerca scientifica. Ma l'Egitto potrà aderire al BRICS a breve e medio termine? Degli esperti che l'adesione dell'Egitto al gruppo del BRICS sia un sogno difficile da realizzare nella situazione attuale, ma non escludono la possibilità di fare tentativi a tale riguardo. E ciò sull'esempio della Turchia, che cercava di aderire all'Unione Europea. Sebbene fino ad oggi non abbia realizzato il suo obiettivo, la Turchia ha potuto elevare in maniera considerevole la sua prestazione economica. Ah, invece stimano che l'Egitto disponga delle potenzialità che gli permettono di raggiungere il BRICS, dato il suo importante ruolo politico nella regione come il più grande paese del movimento. L'Egitto ha anche i suoi esperti in diversi campi, e ciò gli permetterà di aiutare altri paesi, dato che l'obiettivo principale del gruppo BRICS è di realizzare un interesse comune. L'Egitto non desidera solo aderire al gruppo, ma anche approfittare dell'esperienza dei paesi emergenti nei campi dell'insegnamento, della sanità, della lotta contro la povertà e l'analfabetismo. Ragione per cui questo soggetto figura in testa all'ordine del giorno del capo dello Stato nella sua tournée effettuata qualche mese fa in un paese del BRICS. Si tratta di un passo importante sulla linea dell'adesione dell'Egitto a questo gruppo economico. Tuttavia l'Egitto potrà aver bisogno di investimenti stranieri di altri paesi per collocare dei progetti nel corso di questo periodo. Vediamo inoltre che gli investitori del BRICS sono abituati a lavorare nelle circostanze difficili. Da segnalare che le condizioni che i paesi del BRICS hanno vissuto assomigliano alle condizioni di cui ne testimonia l'Egitto. Ciò spinge gli economisti ad affermare che l'Egitto potrà essere membro del BRICS in quanto ha un gran mercato per tre investitori. Per quanto riguarda i problemi suscettibili di scatenare o ritardare l'adesione dell'Egitto al BRICS, vi è la crisi finanziaria che affronta l'Egitto a causa dei continui turbamenti politici da più di 2 anni. Si aggiunge la diminuzione delle riserve in moneta estera e dei redditi del paese e del settore del turismo e dell'investimento. Per aderire al BRICS il tasso di sviluppo deve variare dall'8 al 10%, e ciò non è il caso per l'Egitto, il cui tasso di sviluppo è stimato attualmente al 2% solamente. È dunque necessario optare per delle riforme urgenti per raggiungere il tasso di sviluppo richiesto, quindi raggiungere il quota dei 5 paesi, le cui economie rappresentano il 40% dell'economia mondiale. La radicale avete appena ascoltato Retroscena, a cura di Tesoro Bernini, presentata da Alessia Burma. Thank you. sempre scuro di apparente giù ciò che sei veramente. L'albergo di una giornata, un viaggio che faccio per sentirti più sicuro, vicino a te stesse. Non basta, non basta. Firmano un protocollo di cooperazione. Il ministro della cultura inaugura il museo El Nasr a Port Said dopo il rinnovo. Una conferenza alla biblioteca Alessandrina sulla restaurazione del mosaico. Nel quadro di attivare i rapporti culturali con la Gran Bretagna, l'Egitto e la Gran Bretagna hanno recentemente firmato un protocollo culturale. Il campo di applicazione di questo protocollo riguarda il corso di formazione per il personale del Ministero della Cultura nell'archiviazione, il restauro e il database delle antichità, oltre alla restaurazione di vecchie registrazioni audio e video che risalgono al XIX secolo. Il protocollo offre anche borse di studio e corsi di formazione per i lettori nel Regno Unito, oltre a delegare esperti inglesi per l'insegnamento delle arti. E si inclina anche un protocollo di cooperazione tra la Cairo Opera House e l'Opera Inglese. Infine, questo protocollo permette lo scambio di fiere culturali, tra cui libri, arti plastiche, pubblicazioni e traduzioni, oltre al folklore tradizionale. Cari ascoltatori, il ministro della cultura e il governatore di Port Said inaugurano il Nasr per le arti moderne alla presenza di molti dirigenti e personaggi famosi. Il museo riprende la sua attività dopo aver completato il rinnovo di attività, tra cui la sicurezza della rete e l'aggiunta di due nuovi padiglioni dal nome di Al-Mahri, il Mare e Al-Khaled. Sale per diversi eventi. Il museo contiene più di 100 opere diverse in settori diversi, per le arti plastiche come la scultura, la fotografia, la pittura, la grafica e la ceramica. Il museo comprende anche la nuova collezione di opere recenti, la maggior parte delle quali sono su argomenti nazionali. Il museo Nasr si ricongiunge a diversi musei egiziani per svolgere il suo ruolo nella diffusione delle belle arti, ospitando diverse fiere di arti plastiche ed eventi artistici, oltre a mettere in luce i talenti attraverso laboratori artistici sotto la supervisione di diversi specialisti. La biblioteca Alessandrina ospita una conferenza con il nome di Il restauro del mosaico. il responsabile della sezione restauro presso la biblioteca del San Bruno offre questa lezione. Questa conferenza si inserisce nel quadro di sostegno dei giovani ricercatori della biblioteca del San Bruno attraverso la presentazione del programma culturale per diffondere la consapevolezza circa la sua storia antica e il suo contributo allo sviluppo delle scienze in tutti i tempi. Siamo giunti alla fine di questa puntata di Fenomeno Artistico, dandovi appuntamento alla prossima edizione, vi auguriamo tutto il meglio. Panorama Artistico, cura di Heber Assis, e presentato per voi da buonasera carissimi amici e ben ritrovati al nostro giro giornalistico del lunedì, in corso del quale scriveremo insieme le diverse pagine del stampo egiziano. Seguiteci. Cominciamo il nostro giro di stasera con il quotidiano Al-Akhbar e lo Jam. Sono 9 i ministri che cambiano il governo del premier egiziano Hisham Kabil, nel secondo ripasso dalla sua nascita nel 2012. Due ministeri pesanti, investimento e pianificazione, vanno ai uomini dei fratelli musulmani. Nuovi titolari, tecnici, pure a giustizia, finanze, petrolio, risorse, energetiche, sociale, cultura, cultura e rapporti col Parlamento. L'ascito di un governo di unità nazionale è stato invocato invece dalle opposizioni come condizione per partecipare alle prossime elezioni. Processo a carico dell'ex presidente egiziano Mubarak per il suo presunto ruolo nell'uccisione dei manifestanti nelle proteste del 2011. Circa 3.000 uomini della sicurezza sono stati schierati intorno al tribunale dell'Accademia di Polizia nella periferia della capitale per evitare possibili violenze da parte di fazioni pro o contro Mubarak. Passiamo ora al quotidiano Al Jumu'iyya e leggiamo. Alla mattina, alla sera e dopo la chiusura del venerdì, migliaia di persone hanno partecipato alla protesta contro l'attacco sionista contro la moschea Al-Aqsa. Analoghi manifestazioni sono state riorganizzate da decine di palestinesi sulla spianata delle moschee a Gerusalemme per protestare contro gli abusi dei coloni ebrei e contro i piani di giudaizzazione e di colonizzazione che affronta la città santa. Concluderemo il nostro giro di stasera con un brano di un articolo pubblicato sul settimanale Akbar Al-Yom e leggiamo: la festa dello Hashan Onizim, la festa dei faraoni, celebrata la settimana scorsa in Egitto, ha messo d'accordo tutte le anime del paese. Con il suo volto popolare moderno riunisce milioni di persone in tutto l'Egitto che escono dalle proprie abitazioni per ritrovarsi nei parchi cittadini, passeggiare a base di piatti tipici della tradizione egiziana. Famiglie e amici si ritrovano in questa buona giornata nei parchi e nei luoghi turistici per godersi un momento di pausa. Una giornata che si trasforma in una sorta di prega civile per un paese che vive una complessa, delicata e turbolenta fase di transizione politica e sociale. Arriva come fosse una boccata d'aria per l'edizione quest'anno. Una spaccatura all'atmosfera politica pesante, alle differenze, alle tensioni. La vittoria che abbiamo presentato prima pagina. A cura di Estesola Cromo G. E presentato per voi da Antonello Bocchino. Thank you. sera. Sharazade è la famosa principessa che narra le fiabe delle mille e una notte, conosciuta in Occidente col nome di Sharazade. La leggenda di Sharazade è tuttora tramandata oralmente tra le donne arabe per lamentare quanto sia importante per una donna coltivare l'intuito, l'intelligenza e il divino. Ma qual è la storia di Sharazade? La nostra enciclopedia ce la narra dopo il prossimo stacco musicale. Seguiteci. Il persiano Shahriar aveva scoperto sua moglie nell'atto di tradirlo con una schiava. Rashid è profondamente adirato, in un eccesso di gelosia e collera aveva tagliato la testa a entrambi, ma un uccidio non aveva placato la sua rabbia, così decise che la vendetta contro tutte le donne sarebbe stato il suo scopo di vita. Ordinò il vizir, che era anche il padre di Shahriar, di condurre alle sue stanze una vergine ogni notte. Lui l'avrebbe sposata, l'avrebbe posseduta e all'alba l'avrebbe uccisa. E così fece per 3 lunghi anni, uccidendo migliaia di innocenti fanciulli. Il suo senso era grande di ogni malattia, e fuggendo, portando via le proprie fanciulle di maschio, si riceveva, finché non restarono più fanciulle da sposare, tranne le 2 figlie del vizir, Sharazade e sua sorella, di Nazare. La coraggiosa Sharazade si offrì subito volontaria, parlando al padre disperato, per assicurandolo sul fatto che lei avrebbe salvato non solo la vita della sorella, ma anche quella delle altre fanciulle, e che il periodo di sangue sarebbe finito. Il padre si oppose con tutte le forze, ma Sharazade era convinto di avere un potere speciale che avrebbe curato l'anima in pieno del suo drago. Il padre si oppose, e Sharazade fu dato in sposa al malvagio re. Introdotta nella sua stanza di letto, la principessa iniziò a narrare una storia così deliziosa, ricca di particolari e interessante, da incantare il re, e la lasciò furbescamente in sospeso. Così il re non poté sbarazzarsi di Sharazade, curioso com'era di conoscere il finale della storia. Nella seconda notte Sharazade iniziò una nuova storia, che al sopraggiungere dell'alba era ben lontana dalla fine. Il re la risparmiò per un giorno ancora. E la storia si ripeté la notte successiva, e quella successiva ancora, per 1001 notte, cioè poco meno di 3 anni. Il re non fu più in grado di immaginare la sua vita senza la sua principessa Sharazade. Il re Sharazade era guarito, era riuscito di nuovo ad aprire il suo cuore. Da guarirlo era stata non la bellezza, il sesso e la tenenza, ma l'astuzia e l'intelligenza di una donna coraggiosa. La Radio Caro che abbiamo presentato, Enciclopedia Audio, a cura di Amelie Sahin, ho presentato per voi l'Antonello Bertino. Civili uccisi nell'esplosione di un omino nel sud dell'Afghanistan. e c'è allora la presentazione di un giornale. Allora, in questo momento, Egitto ha un distinto critico voto per l'ascoltatore di Radio Free. Ma non si finisce in sezione se vuole un grande musica orientale. All'inizio, 30 bussola economico di Anfer Ahmed. All'inizio, 35 crono di Turchia, di Rome Sanè. All'inizio, 40 prima pagina di Pupo Mandini. All'inizio, 45 Egitto sulla fronte di Anfer Ahmed. Thank you.